pasa? Siempre en mi casa. ¿Qué pasa? No, non è una scusa. Notte di sogni su una casa, vivo distante da una massa. Il tempo passa, in strada troppa ressa. Non se mi aspetto, l'orologio scorre lento. Dentro me lamento, troppi pugni sotto al vento. Nella stanza un fumo intenso. Passo le ore a cercare un senso. Pensa e respiro, tiro e riaspiro. Ogni giorno come fosse il primo. E come prima, più di prima. C'è chi mi guarda dalla cima. Metto la mia vita e fuego in ogni rima. Ho visto il paese vincere un mondiale. Cambiare la moneta, violenza in ogni punto del pianeta. Chi si è perso verso la meta. Non sai, legami, spezzarsi come creta. Com'è che vedo e sento il tempo correre? Perché io devo sempre rincorrere. A volte spinto dal vento, spesso contro vento. Ci provo e ci riprovo, sfidando ogni momento. Com'è che vedo e sento il tempo correre? Perché io devo sempre rincorrere. A volte spinto dal vento, spesso contro vento. Ci provo e ci riprovo, sfidando ogni momento. Per ogni giorno che vivo, ore di sclero, no di nero. Lo dico davvero, sopra me è un cielo nero. Ha coperto il sole, fuori piove. Rimo insieme a Tave, Cristo invece altrove. Ma dove? Rivoluzione, questo ci vuole. Un cambiamento a questo mondo, se non l'uomo esplode. Cade merda sulla testa di chi crede. Ma se Dio vede e provvede, ha perso l'indirizzo della sede. Terzo piano, parla piano, svegli il vicino. Ognuno col suo Dio sul comodino. L'esplosivo nel giubbino. Quale sarà il destino di una lacrima sul viso di un bambino? Sole non si vede, chi sarà il mio erede? Ma non si può continuare in questa situazione. Per la strada confusione, resto straniero nella mia nazione. Com'è che vedo e sento il tempo correre? Perché io devo sempre rincorrere. A volte spinto dal vento, spesso contro vento. Ci provo e ci riprovo, sfidando ogni momento. Com'è che vedo e sento il tempo correre? Perché io devo sempre rincorrere. A volte spinto dal vento, spesso contro vento. Ci provo e ci riprovo, sfidando ogni momento. Per ogni giorno che scrivo, cuore reattivo, impulsivo, sempre vivo. Ma a volte non capivo, spingo la mia alfa nella notte. Ripensando agli anni delle cotte, a quelli delle botte. Che botte, senza fiato e ossa rotte. Che rotte, troppe anime corrotte. Non cadere in tentazione, né dell'illusione. Stessi idee bro, stessa posizione. Nulla viene da sé, con l'oblio dentro su di me. Ma a volte non c'ho cazzo di perché. Dov'è il tempo che è trascorso? Non c'è, ne sento il peso sul mio dorso. Cos'è? C'è bufera sul percorso. Svaluto pensieri come banconote fuori corso. Né alba né il tramonto, il sistema te lo smonto. Spingo nel caos per agire sempre contro. Com'è che vedo e sento il tempo correre? Perché io devo sempre rincorrere. A volte spinto dal vento, spesso contro vento. Ci provo e ci riprovo, sfidando ogni momento. Com'è che vedo e sento il tempo correre? Perché io devo sempre rincorrere. A volte spinto dal vento, spesso contro vento. Ci provo e ci riprovo, sfidando ogni momento.